Ciao a tutti. Allora io cercherò, insomma, per quelle che sono le mie, diciamo, comunque limitate conoscenze di un neolaureato, di introdurvi un po' al pensiero di Fanon a grandi linee, isolando il tema della violenza, perché poi in realtà le problematiche discusse da Fanon sono molto ampie, soprattutto se si considera che il primo testo, Pelle nera, maschere bianche, scritto nel 52, è una riflessione su, diciamo, le conseguenze psicologiche del razzismo affrontata dal punto di vista psicanalitico. Questo ve lo lascio come dato, però non avremo tempo di discutere di questo aspetto, perché insomma implicherebbe di entrare dentro tutta una serie di autori a cui fa riferimento Fanon, soprattutto i classici della psicanalisi, Freud, Jung e il primo Lacan, che lui recepisce nei suoi studi francesi. Quindi appunto ci concentreremo specialmente sui Dannati della Terra, che è la sua opera più importante, più conosciuta, che è l'opera che viene recepita inizialmente negli Stati Uniti da il diciamo movimento del Black Power, ma soprattutto nella sua applicazione pratica dal Black Panther Party, che ci funge da, appunto, da collegamento tra la riflessione di Fanon e il contesto afroamericano, che poi verrà sviluppato nel prossimo intervento. Non so se tutti conoscono Fanon, magari vi dico giusto velocemente chi è. Era essenzialmente di formazione uno psichiatra martinichese, che poi studiò in Francia per i suoi studi universitari, studiò soprattutto appunto medicina e psichiatria, ma anche molta filosofia a Lione e soprattutto con il professor Merleau-Ponty. Quindi Fanon, attraverso, diciamo, gli insegnamenti di Merleau-Ponty, recepisce soprattutto una determinata lettura di Hegel che viene fatta in quel periodo in Francia, scaturita dai famosi seminari di Kojève negli anni 30. E infatti uno degli autori di riferimento di Fanon è proprio Hegel, di cui appunto cercherò di farvi capire come lo utilizza e che tipo di discorso sviluppa a partire da questo confronto con Hegel. Quindi, per inquadrarvi un po', diciamo, il suo riferimento filosofico, Fanon appartiene a tutta quella generazione di studiosi francesi che vanno da, appunto, da Merleau-Ponty a Lacan, soprattutto, che da Hegel e dai famosi seminari di Kojève prende tutta una serie di considerazioni poi applicate alla psicanalisi. Quindi è quella, sta in quel, diciamo, entourage di intellettuali francesi. Fortissimo soprattutto sarà successivamente il suo legame con Sartre, che appunto curerà la prefazione ai Dannati della Terra. Poi altri dati, appunto, Fanon come psichiatra poi si reca in Algeria a lavorare a Blida, all'ospedale di Blida, e successivamente, per una serie di contatti che riesce ad avere con alcuni esponenti del movimento di liberazione, molla l'ospedale e si unisce all'FLN, al Front de Libération Nationale, e partecipa come intellettuale, quindi scrive sulla rivista ufficiale del fronte, Mujahid, e poi si muove come ambasciatore in Africa durante gli anni 60, durante il 59-60 soprattutto. Viaggi che gli danno modo di conoscere la realtà africana, che lui ovviamente non conosceva direttamente, essendo nato nelle Antille, poi avendo studiato soprattutto in Francia. Tutto un periodo che gli dà poi anche una serie di nozioni su, per esempio, il movimento panafricano, a cui lui si avvicina particolarmente, e gli dà l'opportunità di conoscere tutta una serie di leader del movimento di liberazione di quel periodo, come Lumumba, il presidente del Ghana, Nkrumah, eccetera. E poi muore giovanissimo nel 61, poco dopo aver pubblicato I Dannati della Terra, perché insomma si ammala di leucemia e muore giovanissimo a 36 anni. Questo dato, ve lo dico, può sembrare magari non importante, ma in realtà lo è, perché lo stile di scrittura di Fanon, soprattutto nei Dannati della Terra, è molto incisivo e violento, sia per i temi che tratta, sia però per la condizione in cui lui si trova. È consapevole che in tempo 3-4 mesi sarebbe morto, e quindi il contesto di guerra in cui lui si trova in Algeria e la sua condizione lo spingono a scrivere molto in fretta. Infatti, se gli altri testi magari hanno delle note, dei riferimenti, I Dannati della Terra non ha quasi nessun tipo di riferimento, perché viene scritto in 6-7 mesi in un contesto di guerra e con questa urgenza di finire il testo prima di morire. Dati queste brevi indicazioni, passo un attimo appunto alla sua nodi concettuali attorno ai quali si organizza la sua riflessione sul colonialismo. Dovete tenere presente appunto che c'è questo spostamento geografico, quindi se i primi testi sono dedicati alla condizione dei colonizzati nelle Antille e quindi hanno tutta una riflessione sul razzismo, il razzismo che discrimina il soggetto nero, per quanto riguarda i suoi scritti poi sull'Algeria c'è tutta una riconversione di queste riflessioni in un contesto molto diverso, cioè quello dell'Algeria, dove la discriminazione non è tanto, è razzista, ma non è immediatamente legata al colore della pelle. Cioè il discorso non diventa più quindi la contrapposizione tra bianco e nero come è in Pelle Nera, Maschera Bianca, ma diventa tra coloni e colonizzati. Però ovviamente, e poi con tutto quello che lui ha interiorizzato nei suoi anni, perché il primo testo è scritto in giovanile, scritto subito dopo che si era laureato, però i temi sostanzialmente sono gli stessi, quindi io magari vi do non tanto un sviluppo cronologico del suo pensiero quanto dei concetti. Fanon, un'altra questione appunto introduttiva che poi servirà anche soprattutto per quello che dirà poi Elisa, è il fatto che appunto, pur utilizzando principalmente categorie del pensiero politico, filosofico e anche medico, psichiatrico, occidentale, facendo questa operazione dal punto di vista suo, che è di quella di un soggetto colonizzato e comunque non completamente interno alla cultura europea, si risolve come un continuo ribaltamento di queste categorie, nel senso che lui utilizza Hegel ma allo stesso tempo ne mostra i limiti rispetto alla condizione coloniale, utilizza Freud e costantemente ripete che le teorie di Freud non possono essere applicate nel contesto coloniale, quindi fa una critica generale all'universalismo europeo, cioè mostra quanto questo presunto universalismo sia in realtà particolaristico, sia in realtà riferito a un soggetto che è maschio, bianco, occidentale, però non ne esce mai, nel senso che la sua rivendicazione di una liberazione dal colonialismo presuppone questa critica alla filosofia occidentale, ma rimane sempre interna a queste determinate categorie, non si fonda mai su un recupero, per esempio, della identità africana tradizionale o, nel caso dell'Algeria, della religione islamica, della cultura arabe, eccetera. Ragione per la quale, per esempio, non è stato mai più studiato e ricordato nel mondo arabo, ma ha avuto una fortissima ricezione nel pensiero politico afroamericano. Quindi, a livello teorico, Fanon parte da una considerazione, desunta soprattutto dal concetto di situazione di Sartre, e elabora un'idea della situazione coloniale, proprio come concetto preso da Sartre, che stabilisce il fatto che l'uomo colonizzato è costruito dal colonizzatore stesso. Come diceva Sartre nelle riflessioni sulla questione ebraica, che aveva analizzato l'antisemitismo, il problema dell'antisemitismo, dicendo insomma, l'ebreo è un soggetto in situazione, non esiste l'ebreo, ma esiste la costruzione da parte dell'antisemita dell'identità ebraica, cioè dell'immagine di un ebreo. Allo stesso modo Fanon utilizza questi concetti, che sono tutti interni alla riflessione esistenzialistica, nella quale non entreremo, però insomma il soggetto è un essere nel tempo e quindi non ha caratteristiche insite alla sua natura, ma costruisce il suo io nella contingenza storica nella quale vive. E Fanon dice la stessa cosa, dice il soggetto coloniale, insomma il nero o il colonizzato, sono uomini in situazione coloniale, cioè vivono all'interno di un contesto che stabilisce qual è la loro identità a partire da un determinato discorso, che è quello il discorso coloniale, cioè un discorso razzista che annulla l'identità dei soggetti sottoposti a questo dominio e li considera sostanzialmente delle non persone, degli oggetti. Questa, appunto, questa considerazione viene presa inizialmente da un confronto anche con la psicanalisi, però soprattutto con un confronto con Hegel, e questa è quella tematica sulla quale volevo soffermarmi maggiormente. Fanon dedica un capitolo di Pelle Nera, Maschere Bianche alla dialettica servo signore di Hegel, facendo una, diciamo, trasposizione di questa figura utilizzata da Hegel nella fenomenologia dello spirito nella situazione coloniale. L'obiettivo è dimostrare che nella colonia non esiste un rapporto dialettico tra le due figure antagoniste, che in Hegel sono, insomma, lo scontro tra le due autocoscienze, e qui viene rapportato come lo scontro tra il bianco e il nero, ma poi riletto, come vi dicevo, come lo scontro tra il colono e il colonizzatore. Il colono è colonizzato, scusate. Quindi Fanon cosa dice? Sostanzialmente nella colonia non esiste contrapposizione dialettica tra i due termini in opposizione, ma un rapporto di esclusione reciproca, cioè uno scontro manicheo che non prevede nessun tipo di superamento possibile di conciliazione tra questi due antagonisti. E questa considerazione viene desunta dal fatto che se in Hegel esiste una reciprocità tra il cosiddetto servo e signore in quella che era appunto quella figura del progresso che insomma stava a significare il progresso della libertà nella storia, qui questa reciprocità è totalmente inesistente. Ossia, il signore non riconoscerà mai il servo come coscienza, come soggetto sostanzialmente, ma sempre solo come oggetto. E di conseguenza lo sviluppo dialettico previsto da Hegel, che si fondava su questo presupposto di reciprocità tra le due figure comunque in conflitto, non è assolutamente possibile. E Fanon dice sostanzialmente quella lotta per il riconoscimento che è alla base della concezione hegeliana dello sviluppo della storia, ma anche della convivenza umana, cioè il fatto che ogni soggetto desidera il riconoscimento dell'altro, non è assolutamente possibile in situazione coloniale. E quindi già questo è quel tipo di operazione che lui svolge di appunto decentramento epistemologico, cioè sostanzialmente di leggere la teorie politiche filosofiche occidentali dal punto di vista della colonia. Quindi dire sì, va bene, questo discorso va bene in Europa, ma non si può assolutamente sviluppare in un contesto completamente diverso come quello coloniale. Qui c'è peraltro un problema anche storico, perché appunto Fanon sostiene che nelle Antille non c'è mai stata lotta per il riconoscimento. Sostanzialmente il nero non ha mai combattuto per la sua libertà ed è stato liberato dal padrone. E lui dice proprio questo, usa proprio questa frase, dice il nero è stato fatto, ossia la sua libertà gli è stata concessa dal signore attraverso l'emancipazione concessa dai bianchi a fine dell'Ottocento, 1848, per esattezza, nel contesto francese. Questo in realtà è un errore storico, nel senso che comunque ci sono state lotte molto significative che hanno anticipato il processo di emancipazione, però lui non lo dice volutamente, non ricorda per esempio l'importantissima rivoluzione d'Haiti, malgrado si appoggi più a autori che sapevano, che avevano messo a tema questo problema, e non lo fa perché appunto la sua idea è quella di suscitare appunto una polemica sulla quella che lui considerava una passività dei neri francesi, ed è importante specificare che lui si riferisce sempre a neri sottoposti al dominio coloniale francese e non inglese o di altro genere. Questa polemica quindi vuole sostanzialmente dire non è possibile uno sviluppo della libertà come processo dialettico di riconoscimento. Ciò può avvenire solo attraverso una rottura radicale con questo elemento antagonista, che è appunto il colonizzatore. E nei Dannati della Terra, appunto, questa volontà di operare una decisione politica radicale di rottura con questo elemento esterno viene concretizzata nell'appunto quello che è il suo discorso sulla violenza. Pensavo di appunto leggere un breve passaggio dei Dannati della Terra, così si capisce meglio. E in questo contesto lui riprende il discorso di Hegel, però non citandolo più direttamente, ma ricreando un'immagine della città coloniale separata tra città araba e città europea, presentando appunto queste due entità in totale contrapposizione. E lui dice, appunto parlando sempre di queste due zone, dice: queste due zone si contrappongono, ma non al servizio di un'unità superiore. Rette da una logica puramente aristotelica, obbediscono al principio di esclusione reciproca. Non c'è conciliazione possibile, uno dei due termini è di troppo. Quindi, a partire da questa considerazione, lui sostiene che solo attraverso appunto una rottura radicale che passa attraverso la violenza, cioè l'eliminazione di uno dei due termini, si può attuare un processo di liberazione. E dice chiaramente, in un passaggio successivo, far saltare il mondo coloniale ormai è un'immagine di azione molto chiara. Distruggere il mondo coloniale è né più né meno abolire una zona, seppellirla nel più profondo del terreno o espellerla dal territorio. Quindi, a partire da appunto da questa idea dell'insurrezione violenta, Fanon tematizza una rivendicazione dell'emancipazione attraverso, solo ed esclusivamente attraverso la violenza, come rottura della contrapposizione manichea non dialettica del mondo coloniale. E il passo successivo, che invece non sarà preso, o comunque in modo limitato, preso in modo solo limitato nella ricezione che poi ne viene fatta nel Black Panther Party, è che Fanon non si limita a questo tipo di rivendicazione, ossia al fatto che il soggetto, appunto reso oggetto dalla dominazione coloniale, ridiventa soggetto attore della propria storia solo attraverso la violenza. Ma vi è anche una seconda sviluppo di questa concezione che viene affrontata in un altro testo, che è l'anno quinto della rivoluzione algerina, di cui non avremo modo di parlare, ma ve lo accenno, in cui Fanon riprende i termini, la terminologia filosofica hegeliana, discutendo della rivoluzione algerina come di un processo dialettico di incorporazione autocosciente della modernizzazione europea. Ossia, seppur il suo discorso sulla decolonizzazione è fondato su una idea di rottura totale con la presenza del colono e quindi con tutto quello che esso significa, con la sua cultura, con l'imposizione della lingua, della sua lingua, e con l'imposizione del suo modello di società industriale. Successivamente, quindi, completato questo, l'espulsione dal territorio e la ricostituzione di una nuova nazione, la sua, diciamo, prospettiva non è appunto quella di una rottura radicale, ma di un'incorporazione appunto autocosciente di tutto ciò che di positivo c'è, secondo lui, nel processo di modernizzazione europea. Questo, molto, ve l'ho sintetizzato molto, ma per dire che, e che poi sarà, immagino, l'intervento successivo, se Fanon presuppone un certo tipo di coscienza della propria realtà storica soffocata dal colonialismo, non è identificabile, per esempio, con un importantissimo movimento, che è quello della negritudine, di cui magari ne parlerà Elisa successivamente, che invece si fonda su appunto la rivendicazione della propria identità di colonizzati, distrutta dal dominio coloniale. Questo per dirvi che appunto Fanon rimane tuttavia pur sempre interno a un discorso politico sostanzialmente occidentale. La nuova nazione che lui immagina come soggetto che insomma emerge dalla lotta di liberazione, si deve costituire a partire da un progetto sostanzialmente nato in Europa ma fallito proprio da quel modello di modernizzazione capitalistica fondata sull'imperialismo che è ai suoi occhi la realtà europea. Quindi vi dicevo, la teoria appunto di Fanon si concentra su questo, emancipazione attraverso la violenza e successivamente processo dialettico e rivoluzionario di incorporazione di ciò che di positivo c'è nella modernità europea, che sostanzialmente per lui è l'idea, una cosa che viene semplicemente accennata nelle ultime pagine dei Nati della Terra, non tematizzata, ma che è l'idea di rifondare su un nuovo umanesimo insomma, le società del terzo mondo, ossia superare la contrapposizione razziale tra la divisione razziale dell'umanità per ricostituire una nuova società fondata su questa insomma, idea di uomo post-razziale. Di tutto ciò nei movimenti afroamericani viene recepito soprattutto all'inizio la sua tematizzazione della, insomma, della legittimità dell'uso della forza contro il dominio coloniale. Il suo testo viene tradotto nel 65, prima nel 63, ma in una traduzione inglese curata da Presenza Africaine che circola poco, poi nel 65 negli Stati Uniti. Visto che insomma il tempo è abbastanza limitato, vi dirò sostanzialmente, poi magari lo riprendiamo dopo, Fanon viene recepito in un momento in cui i movimenti afroamericani erano, il movimento per i diritti civili si era arenato su una strada che sembrava non portare a uno sviluppo positivo delle lotte, che era quella sostanzialmente di Martin Luther King, cioè della pratica della non violenza e della disobbedienza civile. Quando intorno al 64 e soprattutto al 65, con poi l'assassinio di Malcolm X e le rivolte nei quartieri principalmente nel quartiere nel ghetto di Watts a Los Angeles, ma successivamente poi anche in altri ghetti, effettivamente si comprende che la strada della non violenza non stava portando a dei risultati concreti e che i veri risultati, cioè insomma il Voting Rights Act e il Civil Rights Act, insomma, votati nel 64 e 65, erano semplicemente delle concessioni formali, ma che sostanzialmente non avrebbero migliorato le condizioni, soprattutto dei neri dei ghetti americani. Quindi si impone una sorta di radicalizzazione del movimento per rispondere al fatto che le marce della pace di King continuano ad essere attaccate da insomma, personalità insomma, bianchi che concretamente sparavano sulla folla e che quindi non si dimostrava in quel modo che le concessioni del governo erano assolutamente solo formali. Di conseguenza i movimenti che da lì nascono, su quali magari successivamente torniamo, che è il movimento del Black Power, trova in Fanon quell'elemento di radicalizzazione che gli serviva per legittimare l'uso, il ricorso alla violenza per rispondere a questo tipo di attacchi. Tuttavia, com'è che avviene questo tipo di utilizzazione? Voi potete facilmente comprendere che un nero americano non si trova nella stessa condizione di un algerino, che vive una reale condizione di guerra, e che concretamente combatte per la liberazione del suo territorio. Il salto teorico fondamentale che viene attuato da Carmichael, dal leader del Black Power, che è già interno alla tradizione afroamericana, ma che viene soprattutto radicalizzato a partire da quel momento, viene per esempio anticipato già da Malcolm X, ma già successivamente, in realtà, già durante l'abolizionismo si erano creati parallelismi simili, è quello di considerarsi come soggetti in situazioni coloniali, pur essendo interni a una nazione propriamente non colonialista. Non colonialista al suo interno, in teoria solo all'esterno come potenza imperialista. Quindi il legame con Fanon scatta nel momento in cui, nei suoi discorsi politici, nelle sue insomma, si può dire, requisitorie che vengono fatte da Carmichael nei college americani, lui sostiene: noi siamo, come dice Fanon, i dannati della terra, siamo come dei soggetti coloniali. E questo salto teorico permette il fatto di rivendicare come i colonizzati noi utilizziamo la violenza per rispondere alla violenza. E allo stesso modo, e questo è il secondo obiettivo per il quale viene recuperato Fanon, noi siamo interni a quel generale processo di emancipazione che si è aperto con la rivoluzione cinese, la rivoluzione a Cuba e tutte le successive guerre di indipendenza dell'Africa. Quindi da quel momento lì la lotta dei movimenti più radicali interni alla contestazione americana iniziano a considerarsi come parte di una lotta globale contro il razzismo e il colonialismo, appunto in questa chiave, sia colonialismo interno sia colonialismo effettivo esterno, nei continenti africano e sudamericano.